poner mucho voltaje, pero hay, no, no, yo no quiero transmitir así, pero si hay una competencia, si sale zapato o algo, puedo levantarlo un poquito, ¿entiendes? Apretar la tuerca un poquito y... Estoy en el filtro, tengo un slot de 5 vatios en reventa y además con 3 aparatos por palito, un analyzer. Un aparatico que vendió Henry ahí, también un necesitamos. Pero yo no entiendo eso de trabajar, de no trabajo con el de los ojos bonitos. Los ojos bonitos se extraen. Ah, ok, sí, lo de camiones. Sí, el que hace falta aquí en mi casa. Yo pensaba que era solamente para mi casa porque él estaba como asombrado. Coño, no, y yo no salió mal, no sé, el que estaba entretenido. Yo pensaba que tú tenías otro más. El tipo te da 2000 cañitos porque él sabe que le pusiste los tubitos nuevos. ¡Yo para desarmarte! ¡Coño! Es difícil conocer gente así, gente mala. ¡Coño! Y oye, sobrino, el sobrino de Zapato. Sí, tú, sí. No, porque ese era el nombre antiguo. ¡Coño! No, él quiere que la gente salga. Yo no creo que él no quiere. Él quiere que la gente salga para darle guayo. Sí, pero eso la pasa temporalmente porque va probando fuerza y después te das cuenta que él no sigue con esa probada. Te digo que la gente ha gastado mucho billete poniendo lo localmente si hace damage. Yo recuerdo que él hablaba con los hola, hola. Che dirti? ci sono anche quei siti dove vedo case, roba del genere, la fitta. No, che è sempre piovosa, è sempre piovosa. Se si è avuta la monnezza, in chiamate che si stava piovendo. Già va bene, dai. Ogni tanto ci vuole un po' di acqua, così no non cresce nulla. Non ho capito. Cazzo. Vabbè, dipende, magari all'inizio quelli lì sono isolati, a Claudio, quelli lì arrivano bene lo stesso. Allucinante. Ecco. Avanti. Sera Carlo. Ciao Carlo, come si va? Fate bene, come va Gianni? Bene, adesso ho attaccato, come se c'era gente. Stavo cantando, si da poco fa. La serie canta che ti passa. Io scarico così, quando sono carico di problemi di cose, me li scarico così, cantando. È bene, tanto la musica è bella, cantare fa bene, quindi che non c'è cosa migliore già. Con chi sei? Con Tonino Kawasaki da vicino Alghero, da Olmedo. Sera Tonino, ben sentito per la primera, che ti sento. Fai un altro passaggio che ti do un controllo preciso, Tonino. Santiago di 8, Santiago di 8, Radio 4. Santiago 8, Santiago 8 qua, Radio 4. Sì, macchina. Da G4. Quando ti arriva a te lui? No, lui quando ti arriva? Vai, capo. 1, 2, 3, prova radio. 1, 2, 3, prova radio, cambio. Cazzo. Io qua ti arrivo, vabbè, io c'ho il coso, già lo sai, e lui se magari non è perfetto come segnale, non lo so, è un apparecchio antico, cavallo. Questo qua è col microfono da palmo, di uso, questo qua è un bel microfono, l'unica cosa che c'ha è che c'ha il PTT, il tasto del PTT che è il quadrato, ti entra dentro al dito quando lo schiacci ed è un bel duro. Sono in zona Luna e Sole, più o meno vicino al Bulling, e poi è molto aperta come zona, quindi da quelle parti ci arrivo tranquillamente. Io sono con 5 watt. Ho capito, ma sei in barra mobile oppure sei a casa, Tonino? Ok, ho capito. Della Mantova 5, piazzato così, momentaneamente, c'è anche il radiale, ma lì non li piazza, ma tutto deve cambiare casa. Ah, ho capito, quindi è in posizione precaria, va. Capo, non l'ha piazzato perché davano fastidio, lì, capito, non l'ha messa sul tetto. Via, ho capito, benissimo, benissimo. Niente, io sono rientrato da fare un giretto e niente, mia moglie sta preparando un po' di minestra col brodo, la carne, carote e quindi sono in cucina collaborando. Vabbè, le verdure fresche hai messo, di quelle congelate? No, verdura fresca, carote, cipolla, capito, un po' di sedano e prezzemolo. No, perché se per i mandrulli lo fanno già preparato, capito, il minestrone è congelato, ce lo metti dentro e ho fatto il gioco, guarda, più facile così. Mamma sgranava i fagioli, metteva tutta la roba fresca. Ma questo è brodo per fare i tortellini. Ah, sì, ho capito. No, pensavo se si facendo un minestrone. Con la carne di manzo, capito, un pezzo di polpa, giusto per non fare le solite cose. Io li preferisco però col sugo, i tortellini, alla bolognese. Mia figlia abita a Bologna da tanti anni, ha imparato a farla, capito? E ha portato questi tortellini bolognesi, costano una barca di soldi, lo sai. Magari saranno quelli fatti in maniera artigianale, qualche pastificio, capito? E te li fanno pagare perché è roba fresca. Sì, ha comprato quelli freschi, sì. Quelli sono buoni lì a Bologna, in Emilia già li sanno fare bene, sono loro gli specialisti, già lo credo. Vabbè, lì. Sì, è roba loro quella. Avanti Tonino, tu cosa ci prepari stanotte? Cosa prepari stanotte? Ho detto, no, io no. Ah, io mi vorrei mangiare una pizza stasera, di cucinare proprio non aggiungare. Solo che mi fa salire troppo la glicemia la pizza, ma no. Poi vabbè, almeno è più tempo per digerire, non è così, o caro? Sì, bisogna stare anche un pochettino alle regole, mangiare cose sane, e se poi ci sono problemini devi stare là a mangiare quelle cose là che non ti fanno male solamente, è importante andare avanti e mangia ogni tanto. Quindi io, mia figlia che mangia legumi, tutta questa roba qua, e poi farro, tutte queste cose qua, e prende fiocchi d'avena, tutte queste storie. E poi la carne la mangia una volta alla settimana, ma la carne bianca e basta. Mangiare sano fa bene comunque, se mangia quelle cose lì, farro eccetera, cereali, purificano parecchio e grassi ce ne hanno pochi, capito? Infatti, ma il fatto è che sono carnivoro. E tutti, anche io se mi metto la carne la mangerei tutti i giorni. Vedi, il pesce no, il pesce posso anche lasciarlo indietro, ma la carne già mi piace. Io già mangio tutto, carne e pesce, capito? Basta che sia fatto bene uno e l'altro, già è buono. Vai Tonino, io operavo in un altro QTH tanti anni fa e ho ripreso diciamo con questo periodo di pandemia qua, adesso sono a Sassari e ogni tanto anche in macchina modulo, il mio posto di lavoro è Alghero aeroporto. E io, beh, Tonino, non c'è problema, siamo qua. Comunque Rix, allora quando vorrei entrare bussa, non c'è problema, avanti caro. Ciao Tonino, alle prossime, già siamo qua in radio, quando vuoi rientrare come ti ha detto Gianni, fai chiamata. Ciao, buona serata. Allora, come sta andando di radio? Penso che era parecchio del 77. Già, siamo vicini noi, linea d'aria, qua a fondo scala, radio 5, qua sei pulito, il microfono è bello. Poi questo è Luis, è praticamente il top della radio, capito? Si chiama Luis. Già lo conosco, sì, qua già, diciamo in linea d'aria, non siamo molto distanti noi. Insomma, tu sei a Levante e a Ponente, siamo all'opposto proprio, no? Non è che siamo lontanissimi, ma praticamente devi fare tutto il ponte nuovo per arrivare a casa, scendere giù, passare al monte, scendere ancora più giù, io sono proprio giù dietro via Valletta. Già lo so, quella zona ci ho fatto l'infanzia, mia nonna abitava in via Valletta e poi mio zio abitava su in via Mores dove c'è via Bonorva, quelle zone lì già le conosco bene. Io abito via Mores proprio. Mio zio abitava lì. Cappa. Quindi lo sai dove? Non è che sia vicino, se no fai a piedi di riesci la mazza. Io già ci vado anche in bicicletta lì, non è lontanissimo, una volta che fai il ponte nuovo, certo a piedi da qua è lontano, ma in linea d'aria non siamo molto distanti. Ma con la bicicletta pedalata assistita, sto così buttato, sì, no, non sono così atletico ad andare con biciclette normali, con la pedalata assistita mi giro tutta la città. Vedi, se avessi avuto il posto me l'avrei presa io, ma non c'ho il garage. Guarda che se ti organizzi magari, se non lo so, un terrazzino, l'importante è che entri in ascensore, capito? Perché sennò quella te la furano. Sì, l'ascensore ce l'ho, ma bisogna metterla in piedi per starci dentro, bisogna metterla in piedi, non ci stanno dentro l'ascensore. Si tocca portare la spalla e portarla su, e poi vabbè, in terrazzo già ce l'ho il posto, però intanto non lo fa, ci vorrebbe un garage con la presa elettrica in modo che l'attacchi quando arrivi. Sì, esatto, infatti io ce l'ho in garage e là ho la presa elettrica, quindi collego il caricabatteria e diciamo in 3-4 ore mi ricarica tutta la batteria, capito? No, io c'ho il posto macchina, non ne ho garage, capito? Avevamo comprato le cantine che erano sotto il palazzo, poi si è formata la seconda cooperativa, dice che anche loro volevano la cantina, quindi non c'era per tutti e non si è fatto più nulla, ci hanno ritornato i soldi perché avevamo già dato i soldi. So, anche mio zio lì l'aveva presa con quelle cooperative tanti anni fa, capito? Però loro avevano preso il garage anche perché quegli appartamenti lì, quelle palazzine, quasi tutte hanno garage comunque, oltre i cortili con posto auto, capito? Cappagatta, sì. E ci sono anche i vicini in affitto, ma oramai questa macchina ce l'ho, ne abbiamo una solo di macchina, quindi prima ce n'erano due, adesso ce n'è una, quindi va bene, dai. Comunque, se non hai la bici non è un problema, perché se sbaglio tu c'hai il cane, quindi qualche passeggiata già te la puoi fare col cane. Sì, sì, sì, io. E poi d'estate ce ne andiamo al Ghera, a Flattamona, ci facciamo lunghe camminate. No, no, quello lì sì, no, le passeggiate già me le faccio ogni giorno, mattina e sera, sto sempre passeggiando, questo sto per cercare il pappagallo che mi è scappato, sto fremendo. Ho capito, importante fare movimento. E che pappagallo era questo che ti è scappato? Era un luri arcobaleno, quelli che parlano. Caspittina. E come mai, come ha fatto a andare a scappare, diciamo? E io la mattina li libero, ho un'ora, diciamo un'oretta li libero, li finisco tutta la gabbia, con l'acqua accetto, li disinfetto tutto, poi quando la gabbia è pronta loro se ne rientrano da soli, capito? Sono lubrificati, mi vanno sulle spalle, dicono io, vieni, ciao, tutte queste parole qua. E niente, cosa è successo? Che mentre stavo pulendo la gabbia mi stavo guardando il televisore, stavo guardando il telegiornale la mattina e ricordo il televisore è andato sul radio, sulle stazioni radio, quindi non c'avevo occhiali per guardare il menu. Allora ho aperto la porta senza ricordarmi che c'era la finestra aperta della sala. Come ho aperto la torta c'è uscito a raso e quello non si muoveva dalle spalle e tu potevi saltare, te resta stava sempre attaccata a me. Eppure il giorno, cosa so, cosa ne sai, proprio scrivi se sarei volato. Che peccato, anche perché quando, diciamo, sono abituati ad essere accuditi poi si trovano male, capito, all'aperto, col freddo spero te lo possa trovare, cosa vuoi che ti dica già, però la moto ti è scappata. 3 giorni fa, ma io ti dico una cosa, quelli lì hanno bisogno di documento CIT, c'ha anche il microchip, è un pappagallo che non può tenere chi lo trova, se ne lo trovano guai, perché deve avere il CITES ed è un documento che praticamente dove c'è il numero dell'allevatore, dove c'è tutta la genealogia del pappagallo eccetera eccetera, quindi non può tenerli, se non c'erano questi documenti non li possono ottenere. Ho capito, quindi se è roba fresca di 2 giorni fa, meno male che non sta facendo freddo, dai, quindi spero che lo possa trovare, se non si è allontanato troppo, oppure che ritrovi da solo la casa, capito? Veniva, capito, quando lo chiamavo diceva vieni, lui infatti diceva vieni, aiuto. Un amico mio ne aveva uno di pappagallo bello, di quelli cenerini dell'Africa, del Centro Africa, perché il padre aveva lavorato in Congo, capito, lavorava in quei cantieri grossi, costruiva miniere, come si chiamano, dighe, capito, era specializzato, un operaio che guidava mezzi particolari, quelli grossi, ne aveva portato uno, ma ci sto parlando di tanti anni fa, no? Questo lo stesso, Cocò si chiamava, me lo ricordo, e quando dicevi Cocò, e lui ti rispondeva coglione, era abituato a dire solo parolacce, diceva isso, e anche quello poi gli è scappato, non ha più ritrovato, peccato di bestiolina. Ma io non ne ho uno solo, no. Allora c'ho la femmina di quello che mi è scappato, era un maschio e una femmina, una cuccia, poi ne abbiamo un'altra coppia di un'altra razza che ha 5 uova, e adesso dovrebbero nascere. 5 uova è fuori luogo, perché ne fanno da 1 a 3, ne ha fatto 5. Quindi dai, già ripristinerai tutto allora, se le cova la femmina, capito? No Carlo, quella lì è un'altra razza, quelli lì sono calopsite. Io c'ho, se tu vai a cercarlo, è lui, si chiama lui arcobaleno, va per un gusto a cercarlo e lo vedi com'è, i colori che c'ha, è il miglior pappagallo che esista di colori, capito? Ed è taglia media, non è di quelli grandi, però parla, si fischiava praticamente la famiglia Adams, faceva la cacciata familiare, adesso la fischiava. Lo sto vedendo, sì, è molto colorato, blu, verde, c'ha forse qualcosa di rosso, anche il becco c'è la rossiccia, no? Sì, sì, sì. Quindi sono nettarini, non mangiano semi, capito? Mangiano il nettare dei fiori. Per cui io gli dovevo fare un pastone tipo come si fa ai bambini quando li compilate in lupa, per intenderci, si mette l'acqua un po' tiepida, si fa il pastone, loro lo succhiano, hanno una lingua particolare con una ventosa finale dove loro succhiano il nettare e praticamente succhiano questo composto che è fatto da nettare, miele, poi avanzi di pasticceria, zuccheri, eccetera, eccetera. Loro mangiano roba dolce praticamente. E in più mangiano la frutta. Beh, non li devi dare solo l'avocado che è un veleno per loro, però per tutto il resto di frutta le puoi dare. Sto leggendo che è originario della Nuova Guinea occidentale. Lì è molto diffuso, è come pappagallo, e mangiano queste cose qua che stai dicendo tu, ma da quelle parti ha voglia di nettare. Ma infatti, Nuova Guinea sono australiani, Perù, quella zona lì, Australia, Perù e Nuova Guinea, quella roba, quelle zone lì. Sì, anche nell'Oceania sono diffusi, sì. Ma migliaia ce ne sono, se tu c'è una fotografia dove c'è un ramo di albero tutto pieno, ce ne saranno una cinquantina. Già ti mando una foto io con i pappagalli in Australia, ci sono stato da quelle parti per un mesetto e quindi già ho visto. Praticamente quando vai nelle zone dove vivono ci sono parchi eccetera, no? Ti metti il mangime sulla mano e loro praticamente ti vengono addosso, ma non uno, no, a centinaia. Sì, i miei erano già domesticati, capito? Li avevo fatti, praticamente i miei giocavano, se tu li vedi giocando, quelli sono pappagalli, sono bellissimi, i miei giocavano, andavano sopra al cane, giocavano col cane, infatti ho portato il cane per vedere se sentiva l'odore da qualche parte, invece ha odorato dove si è sfuggito, dove si è calato, ha odorato lì, poi mi sono infilato con un cane, anch'io sotto al cespuglio perché è molto folto, ma niente da fare. Capito, quindi oltre il cagnolino c'hai anche i pappagalli. E vabbè, diciamo che a casa mia è un po' lo zoo. C'ho l'acquario tropicale, c'ho i pappagalli e anche il cane. Insomma, ti dai da fare con gli animali. Io in passato ne ho avuti tanti, mio padre faceva il veterinario, per cui cani, tartarughe, pappagallini, di tutto. Poi quando ero ragazzo in campagna andavamo col Vischio a catturare cardellini, verdoni, e quindi avevo sempre gabbiette con un sacco di animali. Poi una volta che vai via dal paese dove c'hai lo spazio e tutto, in città in appartamento è più problematico, dai, a avere questi animali. Infatti mia figlia, che gli piace, non sempre, un sacco di volte mi ha chiesto il cane, ma poi il cane lei va a scuola e noi lavoriamo, chi lo porta questo cane? Quindi alla fine non abbiamo mai preso. Più che un cane mi conviene un gatto, che è indipendente, fa i bisogni da solo, tutto quanto. Il gatto è meglio, però il gatto se non viene educato bene ti fa danno, grazie a tutto quanto. E vabbè, io già ce l'ho lo spazio perché c'è una veranda chiusa, un terrazzo, li metto in terrazzo e stanno benissimo, loro poi la notte li tolgo, li metto dentro casa perché c'è freddo adesso, ma poi d'estate li lascio anche di notte. Avanti. Buonasera a tutti. Ciao. Il segnale, boh, non ti sento bene, anche se ho un QRM qua. Ma come arrivo il segnale? Cosa? Quello di segnale com'è? Non lo so, se sono con lui, se non ti vuole dare segnali sbagliati. Avevi 5, però non lo so se è giusto o sbagliato, perché sono con lui, se è un provinizio. Carlo. Pianto, stavo controllando. Santiago 8, Santiago 8, ma dove sei? A casa oppure al lavoro? Adesso c'è qualcosa, non so. Santiago 8, è anche la radio un po' bassina, capito. Ma tu da questo problema ce l'hai, Carlo? È un po' altina, aspetta. un'altra cosa che non faccio. Buonasera a tutti, se sei al lavoro c'è qualcosa per uno, sì, Santiago 3. No, è gente, non mi viene grande. Domani la controllo. Io ho 105 sciocca, io ho 105, ma mi sembra lavorare in ISO, lo smitter di lui. No, c'è qualche problema, già, non ti preoccupare, sono intervenuto per quello, per dirvi che c'è qualche problema, perché quando ne ho da lavoro mi arriva 9:30, quindi c'è qualche problema. Ci sentiamo dopo, ragazzi, c'è gente, dai. Kappa, va bene. Buon querisce allora. La controllo, dai, vi saluto a tutti, c'è qualcosa che non va. Ehi, Antonio, sei in basso di radio, capito? Sei a livello di QRM, se c'è QRM non capisco cosa dici, non è mai stato così. Siamo adesso d'accordo, dai, domani controllo tutto. Dai, vi saluto, ciao. Ciao. Avanti, Carlo. Ciao, Antonio, dagli un'occhiata, perché i giorni scorsi da lavoro arrivavi fondo scala da me, capito? Invece ti sei abbassato il segnale, ma anche la radio non è chiara, capito? Non è squillante come era i giorni scorsi. Ciao Claudio, se stai ascoltando, continua pure. Avanti Gianni. Vedi, tu e Claudio, la radio si sente chiarissima, lui si sente in basso, in mezzo al QRM. Si sente il QRM, invece voi come parlate, il QRM non si sente più. Allora, io stavo guardando, il QRM ce l'ho a 5 oscillante, sì, è un po' altino, dai. C'è alto io il QRM, io così non ne ho mai avuto, QRM così. Nuvoloso, nuvole basse, sicuramente dipende anche da quello. Appagato. Il QRM era un fiscato, ho pensato anche un po' di propagazione, che fosse dalla propagazione, invece no. Sì, infatti io avevo lo squelch regolato un pochettino alto da ieri, adesso l'ho abbassato per vedere com'era. Ma infatti Antonio già l'ho riconosciuto subito, ma ieri infatti talmente arrivava forte che a un certo punto, come aveva fatto la chiamata, ho detto chi sei Claudio, perché mi sembrava lui talmente era forte, capito? E oggi sicuramente è successo qualcosa, magari il vento, non lo so. Controlla adesso Antonio, qui si farà sentire. Come hai fatto? Lo sto regolando di nuovo, perché come è mollato tutto l'apportante, era lo squelch ancora troppo basso, l'ho riportato su. Lo squelch bisogna regolare quando senti le persone, se no se lo chiudi troppo tu non intendi nessuno. Lo so, sì. Infatti prima quando c'era Tonino Kawasaki, no? Sentivo te e lui no, perché avevo lo squelch alto. Appunto. Sì, io a Tonino io ce lo sentivo lo stesso. Anche se sta uscendo con radiale centrale, basta, senza radiali. Ho capito, sì, che era in situazione precaria con l'antenna, perché solitamente da Alghero, quella zona, qua arrivano Santiago 8 pieno, capito, anche a volte radio 5, bella chiara, capito, invece lui è un po' bassino anche di radio. Perché sta usando un microfono normale, capito, c'è un maracchino nuovo gatto. Non ne va più niente, adesso sta ricominciando, perché aveva venduto tutto, se aveva una bella stazione si è venduto tutto. Eh sì, già me lo ricordo il suo nominativo, ma anche a Sassari modulava prima. Sì, Torino sì, abitava a Sassari prima. Adesso è condizione precaria, ma devo riprendere una casa qua a Sassari. Ho capito, sì, allora già l'avevo sentito, perché ogni tanto con Sassari, già con qualcuno di Sassari, tanti anni fa già ci parlavo, e questo nominativo non mi è nuovo, capito, me lo sono ricordato subito. Non sono andato a dove abitare? A lei. No, me lo si già capito dove. Me lo anche più vicino. Andare, lo stavo dicendo, sì, io lo sentivo, dai, solo che la radio è un po' bassina, perché è normale, ha un microfono normale, in più c'è la traccia della radio, capito, poi già arriva. Adesso vedrai che si riorganizza, come ha sentito che c'è qualcuno, magari a Sassari, già si prenderà qualche radio più performante, magari e sistema l'antenna. Vabbè. Già si organizza pure. Piano piano. Qualche giorno fa di mattina sono entrato, che ero a casa e stavo Gianfranco ed è entrato Giulio, ma ero almeno forse un paio di mesi che non lo sentivo. Si è fermato pure a chiacchierare una mezz'oretta buona e ci ha salutato e mi ha fatto piacere che l'ho sentito, perché era da molto che non lo sentivo più. Comunque poi alla fine vedo che in radio sono tutti i vecchi appassionati che stanno piano piano riprendendo piede. Sì, beh sì, perché poi alla fine è stato tutto con la storia del lockdown, eccetera, eccetera, quando si era chiusi in casa, meno male se avevamo la radio, se no sarebbe impazziti. Io perlomeno sì, perché senza uscire, senza poter fare nulla, almeno con la radio ti facevi compagnia. Infatti, giusto questo periodo è che stai più a casa, perché c'erano tutti questi problemi di pandemia e quello, allora mi è venuto il ghiribizzo di nuovo e mi ero un pochettino riorganizzato, capito, stando a casa. Infatti mi avevo finito prima un modello di galeone spagnolo che l'avevo iniziato tanti anni fa, poi l'avevo messo da parte e proprio nel primo periodo del lockdown mi sono messo e sono riuscito a fare tutto il sistema di vele, di fili che c'erano, capito, già avevo un po' le istruzioni e finalmente l'ho finito dopo tanti anni. Penso che l'avevo iniziato nel 2005 e l'ho finito un anno fa. Cos'è un veliero grande? È abbastanza grande, alto, con l'alberatura 70 cm, 75 cm, lungo, sarà lungo una sessantina in tutto, dai. Qua io c'era un uomo a Stintino, un anziano, che faceva pescherici, velieri. Il pescherici aveva addirittura il motore che tirava sulle reti, funzionava, le luci che si accendevano, guarda, era uno spettacolo, le vendeva anche 5.000 euro. Eh sì, perché ci vuole un sacco di tempo, poi ci vuole tempo non solo, e un sacco di materiale, di colla, chiodini piccoli, carta fina per le vigare, vernici speciali, insomma, devi spendere anche un bel po' di soldi per completarlo. Sono presente il pescherico, quello grande che usano i pescatori, lo faceva preciso, funzionante in tutto e per tutto, si accendevano le luci, funzionava il motore che tirava sulla rete, c'era la rete fino a fila che saliva, quando girava il motore saliva, era una cosa, guarda, era un capolavoro. Capito, lì a Stintino hanno diverse imbarcazioni per la pesca, usano anche il gozzo che è famoso, capito, quello di Stintino. Chi è bravo a fare quei modelli fa dei bei lavoretti, ne ho visto diversi. A me piaceva il veliero, mi piaceva anche disegnato. C'era mio suocero che era un bravissimo pittore. E le ho chiesto, mi ha detto che me l'avrebbe fatto, invece tu non ce l'ha fatta e se n'è andato, quindi non me l'ha mai fatto. Però io c'ho, a casa ho moltissimi quadri sui, ho la casa tappezzata dei quadri sui. Ha vinto medaglie, eccetera, eccetera, è molto bravo, era molto bravo come pittore. Faceva le gare con l'Accademia delle Belle Arti, le davano premi anche. Ha vinto premi nazionali pure. Buonasera, chi c'è da toccare? Ci siamo io, Carlo, poi c'è Claudio, l'ascolto e poi non so chi ci sia di altro, dai. Avanti Carlo, c'era anche Tonino, l'ascolto, non so se ci sia ancora. Avanti Carlo. Buonasera, ben sentito, e in pochi siamo in chiacchiera qua, forse c'è anche Claudio in ascolto, e prima c'era Tonino Kawasaki e da Olmedo, se non sbaglio, è entrato Antonio ma aveva qualche problemino e siamo rimasti io e Gianni. Ciao Carlo, buonasera, a te ben ascoltato. Ascoltato bene, sì. Via, fondo scala qua, benissimo. Sì, trovano 48, quel 48 là, grandi, quello che mi avevano dato. Lo stanno trovando adesso, non hanno bene, ora non vedi tanto fermo. La radio va bene o la passo? Sarà giusto un pochettino. Io ti sento possato, nel senso non è chiara da me, forse perché sei vicino, questo non te lo so dire, però è così. Carlo, da te com'è? Ma se sarà un pochettino, sì, c'è un po' di saturazione, ti capisco bene, eccetera, la radio è forte, acuta, però appena appena satura. Se la passi un po' magari ti sento meglio. Vedo un po' adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E adesso va meglio. Adesso ho migliorato. Perché siamo troppo attaccati già, dai. Questa è la 48, aspetta che la faccio una potenza. No, Franco, non è quello. Prova a staccarti il microfono un po' dalla bocca a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo vedi che ci mette? Cioè, troppo ingresso, sei sacro qua, buonasera. Ehi, Dacra, ciao, buonasera. Aspetta che la faccio una potenza questa radio, forse c'è. Vedo un po' adesso se fa meglio. Sì, andiamo alla notte. È abbassato il segnale e la radio va bene. Troppo ingresso. Il segnale è buono, ecco. Sì, è 9.5, può fare 9.15, però la modulazione è troppo sacra. Perché c'è il regolatore di potenza, perché da 25 watt, capito? Adesso l'ho messo al minimo, così 1, 2, 3. 9.5, sì, volevo fare 9.15, però la radio è migliorata, non so da voi Gianni. Sì, sì, sì, la radio adesso è nitida, capito? Prima la sentivo, detto, magari anche perché siamo vicini, ma non dovrebbe farlo. Ecco. Perché questo apparecchio da troppi watt, capito? Adesso l'ho abbassato, adesso l'ho messo al minimo, adesso sto uscendo con 10 watt. Comunque c'è stato un break. Ciao Claudio, ciao Gianni, era giusto, ho sentito un 48 e volevo provare questo vecchio 48. Va bene, non è la guba al buio, ciao, buonasera. Ciao Claudio, ciao a tutti. Ciao! Mi hai sentito anche a te Fabrizio, c'è anche l'amico Carlo, vai. Fabrizio, va benissimo la radio, ma è l'ultimo passaggio, hai messo l'eco? No, c'è un eco leggero, l'ho regolato leggero da sarà 3-4 mesi fa, e poi non l'ho più toccato. Sì, perché già si sente l'effetto eco, e non è, già va bene comunque, la radio bella bella, nitida. Questo è un apparecchio che mi hanno regalato. Bene, va bene. Non bene, non benissimo, va. È stato modificato un pochettino pesantemente. Ah, ti l'ha modificato Fabrizio, quel tuo amico? Quel mio amico che ogni tanto si diletta. Quel camionista? Il camion gli manca, lo vuole comprare per metterci il baracchino dentro. Il problema è Fabrizio che ci sta solo il trattore in quella via, l'articolato non entra. E ci metteremo un trattore. Una bomba, sì, 9.30, radio super 5, Fabrizio. Ti lascio 2 secondi, Gianni, dai, a te, Campomaglia, e continua tu, io finisco il tuo lavoro e tu poi rientro. E capare, rilasciamo tutto a Carlo e tu fai girare, dai. Un attimo che anch'io stavo controllando i fornelli. Scatta, io avanti a chi tocca. Ciao Fabrizio, buonasera. Ciao, buonasera anche a te. E anche io sto usando 48 modificato qua. Infatti non ho passato il vatto perché stavo facendo troppo saturazione la radio. Eri troppo saturo, eri quasi incomprensibile. Gianni, bene, mi ascolti con questo, sì. Sì, ma ti dico la verità, quello di Fabrizio mi piace di più come esce. Vabbè, questo di questa radio, di quella. No, questo è sempre un Alan 48 modificato. Tu lascia anche le Cocolt. Ehi. La camionista. E quella scheda credo avevo piazzata, adesso non mi ricordo più tutto quello che ci avevo messo dentro. Ah, tu l'avevi fatto quello? Me l'hai detto che volevi dilettarti a farlo uno. Adesso è abbasso la potenza. Così dovrei uscire bene ugualmente, vero? Zappa. Ma è da giorno alla notte, mi fa lì. Come spinge, vero? Spinge di meno di radio, la radio è più bassa. Perché in questa maniera ovviamente spinge molto di più. Praticamente questo cosa gli avevo fatto, se me ne ricordo, non mi ricordo, tutto quello che era possibile metterci dentro ce l'avevo messo dentro. Scheda, VIP, cosa gli hai fatto? Canali? Ho fatto i canali, poi Roger VIP, la scheda è Colt, il doppio modulatore e i colori dei LED che cambiano, rossi quando va in trasmissione, tutto il frontalino e rimangono, mi sembra blu che avevo fatto. Fai vedere? Sì, è blu quando tornano in recezione. Ah, bella. Che la trovo per mettere in macchina. Sì, poi c'è in macchina, già, no, non metto le altre radio. Poi c'è i watt regolabili dall'esterno, l'eco regolabile dall'esterno e il mitigre regolabile dall'esterno. Poi c'è lo squelch automatico, tutte in tre posizioni. RB che sta a voler, Roger B inseribile, il canale, il cambio dei canali e nel P che sta a voler, ci sono messo delle etichette, immaginate quanto so, e il il parlascolta. C'è tutto praticamente, non manca nulla. C'è l'attacca e stacca modifiche. Per i, con il relè come attacca e stacca? Allora, io ne avevo uno che ci passava la calamita sopra, se ti staccava le modifiche e diventava normale di nuovo. No. Quello lì era forte, perché potevi camuffare come volevi, solo vabbè era più pesante, con tutte le modifiche che aveva, se le mirava in mano si la bizzava. Sì, vabbè, ma non faceva a guardare di queste cose qua. Gatto, gatto. Un camionista l'hanno fermato, ci siamo trovati da un elettrauto e mi ha detto, siccome mi ha visto l'antenna, mi ha detto, lo sai che mi hanno fermato la stradale e mi hanno praticamente ristato entrando nella radio loro. Mi hanno detto, o tu li hai lineari oppure dobbiamo sequestrare il camion. Li hanno sequestrati, ho fatto 1000 passeggeri di multa, più li hanno sequestrato il lineare che ci aveva, da 1200 watt. Perché la maggior parte di questi lineari non hanno filtri, però strano. Ma dove sei proprio attaccato? Che hai, scusi, cioè interferire in una radio del genere, ci sono, quanto sono 70 MHz mi sembra loro, o in digitale, voi. Ali punti, no, ma io ti parlo già di un 4-5 anni fa che questa cosa è successa. E praticamente li hanno sequestrato, li hanno fatto tutti i lineari fuori e li hanno sequestrati. Ma io cazzo, 1200 watt voglio trattarli. Comunque, lo fa. Riprendi Carlo. Bella radio la tua, c'ha tutti gli optional possibili e immaginabili, ma anche la radio c'è molto bene. Prima Franco lo stesso, quando poi ha abbassato e ha tolto la saturazione già va bene anche la sua, anche se ripeto quello che ha detto Gianni, la tua Fabrizio è proprio perfetta, non so se dipenda dalla zona, qua arrivi benissimo. Vabbè, io sono zona centrale, anche se adesso dovrò, quando faccio i lavori l'antenna la riporto un po' più in basso, comunque dovrei arrivare sempre più o meno uguale. Bene, avanti Franco, ci sei ancora in ascolto. E un attimo, riprendo subito, che faccio una cosa. Riprendi Fabri. Sì, riprendo io. E niente, no, sono entrato, visto che ho sentito da 48 e dici che lo faccio girare, che era una vita che non girava questa radio. E il microfono cosa gli ha messo? CTE? No, c'è scritto Alan sopra, Alan, il suo originale. Credo che era l'originale, così ho trovato e usato questo. Ah, cazzo. Solitamente vanno molto bene quelli della CTE. Io ne ho messo uno in un altro apparecchio e poi te lo faccio sentire. Praticamente è un microfono normale e gli ho messo l'eco dell'apparecchio, non so quanto esce bene. Lo so, ma vanno bene questi apparecchi, cioè sono, si può fare di tutto, comunque secondo me è una fesseria modificarli questi 48, perché vabbè, io ci ho messo un sacco di tempo perché non avevo mai fatto, quindi mi sono dovuto un attimino perdere tempo, poi mi ha fatto impazzire un paio di cose, ho dovuto sostituire, lasciamo perdere, eccetera, però non mi verrà bene, lascia stare con tutto, perché non è solamente il tempo che ci metti, perché al limite uno si specializza un po', poi fa uno dietro l'altro e il tempo lo abbatti, è che i pizzi costano, cioè alla fine ci sono forse, io non vorrei sbagliare, ma 150 euro almeno di materiale per modificarlo ci sono. Certo, sì, la scheda, questo e quell'altro, sì. E infatti se li fanno pagare 400, 450, dipende, quelli i primi che facevano pagare un bel. Ma ci vuole, perché metti il frontalino, poi c'è col frontalino, con tutti i bicolori, poi ci vogliono il relè per collegare. Però voglio dire, ci vogliono. Io mi ricordo avevo speso un 150 euro, avevo fatto, l'avevo iniziato oppure avevo abbandonato, e poi un giorno mi sono rotto le scatole, l'ho ripreso in mano e l'ho terminata, perché non riuscivo a, avevo problemi con la scheda canale, ma non so quanto tempo ci ho battagliato. Poi alla fine un giorno dopo che l'ho abbandonata ho detto ma vai ammazzati tu, e prima o poi gli rimetto mano, si stavo buttando, un giorno mi rimetto, ti smonto la scheda, l'ho 200 volte l'ho smontata, alla fine la controllo bene e c'era una saldatura fatta male sul, sul circuito, per controllare il nome lo schema c'era un, adesso la controllo e c'era un problema proprio da, da chi me l'ha venduta. K, sì, ma cosa c'è il frontalino, quello trasparente che si illumina tutto, no? No, il frontalino non, gli ho cambiato, il frontalino interno cambi praticamente, perché cambi il frontalino all'interno, c'è, la, c'è un prefrontalino, chiamalo, non so, dentro c'è quello che tu, e dentro c'è con il, per poterlo fare con la doppia illuminazione, c'è questo, però esternamente non l'ho mai cambiato il frontalino, ma quello ci vuole poco se a, a cambiare quello, non l'ho mai cambiato, dai, il frontalino è una fesseria. Comunque già è una bella radio quella, si presta a fare tutte queste cose, e ne ho visto qualcuna su internet, tutta, le fanno stilizzate proprio con la bandiera americana e altri disegni pure. E i disegni è il minimo, prendi costa 8 euro, prendi la mascherina e gliela applichi. Il disegno è proprio il minimo, capito? Sì, a parte tutte le altre cose, però poi con quello completi l'opera. Esteticamente quando è tutto così modificato già è bello, dai, è apparecchio Colt, però bello e anche funzionale. K, questo è il nuovo apparecchio, Fabi. E qual è questo? Questo qua è il Cobra DX, 2000DX, col microfono che ti ho detto, quello della CT è modificato da me, dai. Ho capito, ho capito. Come va la radio? Ti piace? Sì, va bene, non è invadente. Va bene, avanti. Quindi faccio girare anche questo, che l'altro è scaldato. Faccio scaldare anche questo, di tanto li faccio girare. Ma questo con l'elicottero è Gianni? No, no, non è elicottero. È già partito. No, questo elicottero non è, c'ha l'eco praticamente dell'apparecchio, è il microfono normale che tu sai che ti ho fatto vedere. E quello del, quel microfono del il Midland, è quello che avevi dato, che abbiamo adattato. Esatto, quello lì. Questa lampadina non l'abbiamo ancora trovata per il microfono, vero? No, negativo, io l'ho cercata, ce l'avevo una ma non l'ho trovata, già, capito? Ma si possono abbassare con le resistenze. Ma cosa te ne fai, scusa, di questa lampadina? Era così in origine, mi piace. Fabrizio, avevo la lampadina nel microfono, come prevedevi la portante si accendeva, solo che adesso non accende più, quindi sarà fulminata, ma non so che tipo di led sia, da quanto sia. Oh, mandami una foto, come faceva? Ma la batteria interna c'ha questo, questo cavolo di microfono? No, non è a batteria, probabilmente era collegata al PTT, come schiacciavi e si accendeva. Come parlavi, dai, dai. Come schiacciavi il microfono si accendeva. Hai provato se si accendeva schiacciando magari la visione di un'altra radio? C'è un caldo qua in cucina, adesso stavo aprendo un po' la finestra, se no con riscaldamento acceso ci saranno oltre 27 gradi, porca miseria, sono in maglietta maniche corte. Fabri, è possibile che fosse collegata la capsula? È provato. Si deve essere allontanato Fabrizio. Vabbè, fra, come mi ascolti con questo qua? Il russo, benissimo, qua sta arrivando bene. Ascolta, ma l'eco va bene così, o la abbasso ancora? Abbassala appena aperta. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va bene così? Troppo bassa, non ce l'è. E così com'è? 1, 2, 3. Alza ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Appena appena ancora. Così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E non se ne sente di eco, alzala appena appena. È troppo, troppo, aspetta. parte come ti risuscita, già troppo nuda. Abbassa ancora un po'. Ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Così può andare bene. Anche appena appena appena bassa. Passiamo ancora, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene, va bene. No, lascia così, non lo tocco più. Perché è un casino, ogni volta che lo tocchi. No, non toccarlo più, così va bene, poi rilassa chi. Vabbè, adesso si è più o meno ho visto com'è, dai. Perché se lo metti troppo è troppo ribombante. No, ripete troppo, non si comprende nulla. Vuole appena appena dietro. Ti aiuta magari con la modulazione, se ne metti appena appena, ti amplifica di più la modulazione, si sente meglio, capito? Però se è troppo alto, dà fastidio. Comunque così va bene, quindi lo lascio così. Per me sì, Carlo. Sì, così va bene, Fra. Ok, dai, allora lasciamo non così. Così, diciamo, si sente l'eco, ma non è eccessivo, è più comprensibile. Ma cioè, va bene, qualche problema sulla finestra del microfono, già, perché a volte non è tocco, cioè invece c'è qualche filo che sta dando problemi. Il microfono quale stai usando? Quello che ti è fatto? No, negativo, il microfono originale, questo è il 48, quello che c'ha la scheda ecco. Se metti chissà che va giù io, un giorno vabbè che c'è un diverso attacco, che ha gli attacchi inverditi, quindi sopra sopra e quindi sotto sopra. Non fa, almeno che abbia un riduttore. Io ne ho uno, Gianni, che mi avevi dato tu dalla CTE, mi sa che gli faccio l'adatto a quello, perché questo sto utilizzando il suo originale, capito? Ehi, quello lì va bene, quello della CTE va bene, c'è la capsula buona. Infatti glielo devo cambiare, devo cambiare le connessioni perché le avevo invertite praticamente. Ehi, ce lo già vivo. Ti appendi, te lo fai, poi via. Per il resto, tra tutto bene. Tutto capo, ma ci metto 5 minuti, 5 minuti adattato, prendo il test. 5 secondi ed è fatto, capito? Adesso non devo voglia fare niente. Sì, tutto a posto, mi stavo sistemando il campo, il frigorifero, la cucina, ho sistemato oggi, pulito tutti gli ugilli, sistemato alcune cosette dentro, cioè vado a finire, è a posto. E anche io lo devo fare quel lavoro lì, perché c'è dei fornelli che sono un po' lenti, come fiamma, troppo, la fiamma è troppo debole. Prima era più forte come fiamma. Vabbè, avanti Carlo, pronto è questo brodo. Ancora un pochettino e per le 8 penso già sarà pronto. Poi si fa come ha fatto la mamma, quella di fronte ci aveva il gatto e stava facendo il brodo, ci aveva per mia sorella poverina che era malata, gli stava facendo il brodo col giretto. Che è più tenero e cosa, ne ho messo un pezzo di giretto. Ma sai che il gatto è entrato dalla pentola bollendo, ci ha preso il brodo e se l'è scappato. Se ne ha fregato il brodo. Muscolino si chiamava, me lo ricordo ancora. Attenzione, il gatto è un furbacchione. Gatto marico, ma non si brucia. Io non so come cacchio ha fatto. Se l'ha portato via, c'era tutto il brodo in terra come l'ha strisciato. C'è entrato un rento, c'era la porta aperta. C'è entrato dentro e ci ha preso il brodo dalla pentola. E sicuramente la carne l'avrà pescata con le unghie, capito? Piano piano e senza bruciarsi, non è macuno la iatta. Non è macano, è quasi. L'altro giorno ho portato un taglio in mezzo all'erba e c'era un gatto praticamente c'era appisolato lì e si sono trovati faccia a faccia con Tyson. Ma sai che il gatto non beve, non stava soffiando, però non si allontanava, il cane abbaiava, però indietreggiava, no, perché sa che il gatto ti graffia giù. Il cane, il gatto lo prende solo quando sta correndo, allora lo perseguita, lo prende per il collo, ma se lo affronta non ce la fa affrontare. Gianni, guarda questo microfono come è uguale all'altra modulazione. No, non mi piace, sinceramente non mi piace, è un po' scintofurto. Lo scivi, no, aspetta, è proprio l'altro. Ma capsula, non te l'ho dato, prova un'altra capsula di quelle là. Oh, Gianni, ne avevo uno io di cane, che le affrontava anche da fermi i gatti, però era un levriere inglese di quelli grandi, tagliati, gigante, aveva le zampe lunghe lunghe, quindi con le zampe cosa faceva? Gliela metteva sul collo, sulla testa, lo abbassava, prendeva qualche... Già, sto chiedendo d'urgenza. Praticamente a mano al collo e lo faceva fuori, era micidiale col cane. Sì, è lui che rubare dei cavalli, i cingali, un tagliamiglia. Anche se è un cane da combattimento, con una tagliamiglia. Il levriere, diciamo, in Inghilterra viene usato per le corse, e da caccia non è molto... Una volta l'ha portato mio cognato, e ce l'aveva chiesto, no? Dice, lo porto a caccia, eccetera. E aveva sparato un coniglio e lui come cane da riporto dice lo abituo eccetera, a quando è arrivato al coniglio era diviso in 3-4 parti, si divertiva a dilaniarlo, capito, lo prendeva a morsi e lo faceva a pezzi. Allucinante. Ce l'aveva anche un amico mio, levriero, e da quando era cucciolo quando ti saltava addosso con quelle zampe grosse ti buttava in terra. Eppure era buono con i bambini, non ha mai morsicato nessuno, ma quando vedeva i gatti impazziva questo cane, si lanciava a cavolo e li prendeva tutti. Il problema è quello, in strada quando ero in paese non ce n'era uno di gatto, quando usciva lui scappavano via tutti. Oggi questo è il microfono dell'ala, nome 1 2 3. Carlo, rispondi. È questo, fra. Questo è il microfono ala, quell'altro microfono che stava dicendo Gianni con la cappa diversa. Quello che avevi prima era molto meglio, quello che hai usato dopo, poco fa, il penultimo che hai usato era molto nasale come voce. Il primo, quello che stavi usando prima, era quello migliore. Questo qua? Esatto. Ok, dai, allora quindi lascio questo. Cappa. Va bene. Ma quella capsula là non la puoi mettere? E qua gli ho messo quella capsula tua, quella che mi hai dato tu, capito? Quella grande. Cappa di positivo. E allora, non so cosa dire, forse non ci va bene. Sì, io sto arrivando, ti faccio una foto già e te la mando di quel veliero, così lo vedi. Ehi, mandamela, lo voglio vedere. Cappa. Purtroppo non ce l'ha fatta a farmela, sennò il quadro di un veliero, mi sarebbe piaciuto un veliero col mare mosso, un quadro col veliero col mare mosso, ce ne sono stato sempre partito di questa immagine. Va bene, lascio questo già, dai, che già va bene. Ehi, fra, lascia questo, ma piovendo sta nulla, sai. È tutto il giorno che piove qua, in campagna lo stesso, un casino, sempre piovendo, da stamattina fino adesso sta sempre piovendo, capito? Non si può fare niente. E qua hanno tagliato l'erba, quanto sarà? Ma con la settimana sta già crescendo l'erba. Incredibile, ma vero. Vabbè, che ci vuoi qua? Non fanno a tagliare la condice spugnatore, dopo che piove cresce subito. Ma infatti io non taglio niente, già, lascio tutto così. Tieni vero, un mazzo da voi sprechi benzina, cos'è? Miscela forse, miscela. Ah, miscela, Però la tenutile che la taglio adesso e poi la devo ritagliare, capito? Se me la fa fare. La faccio allungare un po' e poi gli faccio il taglio. Oia, qua il cane si sta lamentando, per cui devo portarlo giù, dai. Ci sentiamo ragazzi, buon continuo con SEO, mi ha fatto piacere fare quattro chiacchiere con voi e ci sentiamo alla prossima. Carlo, poi vado a vederlo il veliero, che non ci telefono qua a portata di mano. Già, non ci sono problemi. Ciao, anche io vi saluto perché ho da fare anche altre cosettine. Ciao Franco, ciao chi ne ascolto, se ci sei ancora Claudio ci sentiamo più tardi nel caso. Ciao Carlo, buon tutto e ce la riascoltare prossimina. Buon carica batterie quando lo fai, saluto anche io gli eventuali amici che sono in ascolto. Per me in QRT, ciao anche a Claudio se sta ascoltando e ce la riascolterò tra le prossime. Ok, ciao. Ciao, le prossime.